sembrerebbe un'altra eternità. Quanto ci ho messo per amarti come sei. I giorni li lavorerò, le notti a volontà. Io con un altro no, io con un altro mai.